Eccoci a Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì e tutte le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi, ma più in generale sulla trasmissione, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito internet della radio sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Siamo in collegamento con la regista Angelita Fiore per parlare con lei del progetto in crowdfunding del documentario Uomini Proibiti. Angelita, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Allora, è successo questo, che Filippo Vendemmiati mi ha segnalato questo tuo progetto con entusiasmo. Ho detto, perché no? Ascoltiamo cos'è questa storia. Allora, raccontaci un po' di cosa si parla. Allora, il film è un documentario che racconta le storie di alcuni preti che si sono innamorati di una donna e che hanno lasciato poi il sacerdozio per farsi una famiglia e per amore della loro compagna. Ma il film è anche la storia di molte donne che si sono innamorate di un prete e lo hanno fatto in segreto e hanno iniziato quindi un percorso nel silenzio, nell'ombra, perché chiaramente il farsi avanti e il manifestarsi avrebbe messo in difficoltà il prete, dato che la nostra chiesa, la Chiesa Cattolica Romana, non impedisce assolutamente il matrimonio. Senti, l'idea? L'idea mi è venuta tanti anni fa, devo dire la verità, era il 2006. Sono quelle idee che ti arrivano, che poi ti rimangono dentro, poi ogni tanto riescono fuori, e fino a che a un certo punto ho sentito l'esigenza di raccontare queste storie e così piano piano ho iniziato anche un percorso molto lungo. Senti, ma allora raccontaci materialmente il progetto crowdfunding, nel senso, deve ancora tutto cominciare, le riprese, come, raccontaci un po' tutta l'operazione. Allora no, il film lo abbiamo già girato, okay. Ho iniziato a girarlo più o meno nel 2013 e come ti dicevo è stato un percorso molto lungo, intanto perché questo è un mondo sotterraneo, un mondo appunto che vive nel silenzio e nella segretezza, sì. Per cui ho iniziato un percorso parallelo anch'io a quello delle donne che vivevano queste storie e piano piano abbiamo girato parte del film. Si sono poi uniti dei preti, quindi ho raccontato la storia anche di alcuni preti e adesso siamo nella fase finale, per cui in quella che si chiama post-produzione, per cui stiamo finendo di realizzare le musiche, stiamo facendo un po' la color, insomma dobbiamo poi fare tutti i DVD, la grafica, la CI, abbiamo ancora tante spese e non riusciamo più a sostenerle da sole, per cui per finire questo film e per riuscire a farlo vedere abbiamo adesso veramente bisogno dell'aiuto di tutti. Senti, e le riprese, cioè come verrà strutturato il documentario, nel senso, ci sono interviste, segui il quotidiano di alcuni protagonisti, come è strutturato? Il documentario è articolato un po' sia attraverso interviste, perché chiaramente alcune delle storie raccontate erano già accadute, ma anche seguendo nella quotidianità i miei protagonisti, per cui insomma è un ibrido tra il pedinamento, se così possiamo dirlo, e l'intervista. Abbiamo entrambe le cose. Senti, le impressioni ricevute da queste conversazioni, anche questo seguire queste vite? Le impressioni mie? Sì, sì. È stato difficile. Diciamo che io sono partita a girare questo documentario senza pregiudizi, chiaramente senza alcun tipo di pregiudizio, diciamo così. Poi piano piano, chiaramente entrando a contatto con queste realtà e vivendo insieme a loro anche i loro sentimenti, perché a un certo punto si era, come dire, creato un legame molto forte con i miei protagonisti, che tuttora sento, insomma, con cui ci sentiamo regolarmente, anche dal Brasile, per farti capire. Mm-hmm. E il percorso è stato molto duro e difficile anche per me, perché insomma si ha a che fare con sentimenti umani, si ha a che fare con delle vite e a volte anche con delle forme di ingiustizia, per cui insomma poi per chi fa questo mestiere chiaramente ci si mette in gioco poi in prima persona, per quanto si cerchi di stare sempre un po' distaccati, ma non è così, è impossibile, non ci sarebbe poi la bellezza di raccontare queste storie e di amare anche questo mestiere. Mm-hmm. Senti, nonostante questa segretezza, è un fenomeno che ha una sua diffusione, questo dei matrimoni, dei Allora i dati e i numeri sono veramente altissimi, si parla di più di 120.000 preti che hanno lasciato il sacerdozio, e queste sono quindi le fonti, diciamo, ufficiali, cioè di preti che lasciano. Immaginati quanti invece sono quelli di cui non si sa, che hanno, non so, una donna segreta, o che hanno sofferto, oppure quelli insomma che hanno dei figli illegittimi, piuttosto che, perché questa è una realtà molto varia, no? Non ci sono solo i preti che a un certo punto lasciano il sacerdozio e si sposano, ma ci sono anche quelli che non hanno il coraggio o hanno una vocazione per Dio più forte rispetto a quello verso la donna, insomma, per cui i numeri sono credo molto più alti di quelli ufficiali. Mm-hmm. E quando io ho iniziato a fare questo documentario nessuno ne parlava, cioè era una realtà che nei giornali, nei televisioni, nessuno dava spazio a questo fenomeno, se così lo posso chiamare. E adesso chiaramente con Papa Francesco si inizia un po' ad avere una sorta di apertura, ma i tempi forse non sono ancora maturi, per sì. Questo è necessario fare vedere il film. Ultimamente le storie che hanno raggiunto la cronaca sono quelle di suore che hanno dato alla vita delle creature, e non si sa come, insomma. Sì, esatto, penso che forse lì a quel punto non puoi più tenerlo nascosto, e quindi per forza di cose vai sotto gli occhi di tutti, però non sono solo le suore, sì, ci sono molti preti, certo. Insomma è una situazione molto molto particolare, che crea poi dei problemi da tanti punti di vista, perché ripeto, non ci sono solo i preti che poi insomma scelgono di lasciare, ma ci sono anche quelli che magari anche per un'educazione rigida che hanno avuto, e questo lo raccontiamo nel film attraverso proprio testimonianze reali, per cui insomma lo dicono i miei protagonisti, hanno avuto poi delle complicazioni anche riguardo la propria sessualità, il proprio rapportarsi con le donne e con il senso della famiglia. Mm-hmm. Per cui insomma è veramente un argomento molto complesso, sì, molto complesso, che io ho cercato un po' nel film di raccontare sotto un po' tutti i punti di vista, cercando di dare un quadro completo, sì. Attraverso poi le voci di tre nuclei familiari fondamentalmente, che io ringrazio perché sono stati molto coraggiosi ad esporsi. Hanno avuto veramente molto coraggio, e soprattutto perché quando abbiamo iniziato a girare il film non c'era ancora Papa Francesco, per cui la situazione della Chiesa era molto più chiusa, e loro rischiavano veramente tanto, insomma questo io lo devo a loro. Senti Angelita, allora in chiusura, se ci sono già delle date per una fruizione pubblica, e poi gli estremi per le informazioni sulla campagna di crowdfunding. Allora, per le date ancora non c'è niente di certo, però sicuramente in chiusura insomma del crowdfunding, se riusciamo a raggiungere questa quota, perché come sai, quando si fa il crowdfunding, se non si raggiunge il goal, tutte le persone che invece ci stanno sostenendo insomma non arriveranno al nostro scopo, perché si deve raggiungere la cifra che noi abbiamo preventivato per ultimare il film, che sono 5.000 euro. se si raggiunge quella cifra, e speriamo anche di superarla, chiaramente avremo le possibilità di fare la copia del film per il cinema, e credo che di lì a poco ci sarà l'anteprima mondiale. Okay. Per cui insomma vi terrò informati. Se ci seguite anche sulla pagina Facebook del film, che è Forbidden Man film, noi daremo tutte le informazioni, ma soprattutto voglio ricordare la pagina del crowdfunding, è veramente importante, bastano anche solo 8 euro per far sentire la propria, il proprio sostegno, ed è su il sito di ulule.com/uomini-proibiti, e comunque insomma si trova digitando in internet uomini proibiti, si arriva al crowdfunding, per cui veramente sosteneteci, perché manca poco, un percorso lungo e manca pochissimo, stiamo arrivando alla fine. Bene. Angelita, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci per le novità. Va bene, grazie mille, grazie a tutti. Ciao. La regista Angelita Fiore sul progetto in crowdfunding del documentario Uomini Proibiti. Parliamo adesso del movimento Milk, che è autore di due lavori che sono usciti su distribuzione dal basso, uno è Ritratti, l'altro è Meduses, non so come sia la pronuncia, e già era stato ospitato un loro lavoro. Ne parliamo con Michele, che del movimento Milk è uno dei rappresentanti. Michele, ci sei? Sì, ci sono. Benvenuto. Ciao. A Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi. Io direi partiamo dall'esperienza Milk, del movimento Milk. Cos'è questo soggetto? Spieghiamo brevemente cos'è. Attualmente il movimento Milk è un duo artistico composto da me e Vincenzo Vecchio, che si occupa di arte contemporanea e cinema di ricerca. Sì. Il nome movimento Milk, movimento più che altro, trae in inganno molte volte, perché può sembrare che siamo più di qualche elemento nel gruppo, ma effettivamente ora siamo due. L'idea originale del movimento era quella di inglobare diversi filmmaker e autori che lavorassero nel sud Italia, ma l'esperimento non è andato a buon fine, quindi si è deciso di fare un nome composto e chiudere il nome, no, tra parentesi grasse, ma comunque restiamo aperti per nuove collaborazioni e quant'altro per quanto riguarda il cinema. Sì, ecco, proprio riguardo al cinema, ecco. C'era già stato un lavoro, c'eravamo sentiti per mail proprio per quel lavoro, sì, sull'essere statua, e poi questi, sì, due che adesso sono su distribuzioni dal basso, ecco, esatto. Raccontiamo in generale cosa sono questi questi progetti. Esatto, allora il primo lavoro, che era L'insostenibile leggerezza dell'essere statua, è un lavoro di 50 minuti, un lavoro che racconta la quotidianità di un artista vivente, di un mimo. Mentre Ritratti e Meduses sono due film brevi che in qualche modo affrontano il tema in maniera molto concettuale, il tema dell'immigrazione uno e dell'immigrazione l'altro. Da qualche mese sono su distribuzione dal basso e in qualche modo stiamo cercando anche di divulgarli con proiezioni pubbliche specifiche, magari in luoghi un po' più legati al cinema sperimentale, ecco. Sì. E non a grande distribuzione. Sì. Ritratti affronta il tema dell'immigrazione in maniera un po' concettuale, proprio perché per esperienza anche personale racconta questa immigrazione come viaggio, dove il viaggio in questo caso è l'esatto contrario di una comunità che rimane chiusa nei propri luoghi, una sorta di costante interazione con posti e culture differenti. Sì. Meduses invece affronta il tema dell'immigrazione, ma incentrando l'idea sui termini che secondo noi oggi si usano impropriamente, e cioè immigrazione e clandestinità. Noi con questi due termini abbiamo cercato di affrontare il tema attraverso una serie di lavoro di immagini d'archivio, che è una costante del nostro lavoro, e cercando di accostare il movimento delle meduse al movimento dei barconi, che nel Mediterraneo, come ben sapete da queste ultime notizie, sono sempre in viaggio, in costante viaggio. E lì in Mediuset soprattutto abbiamo cercato di fare attraverso un audio di mammiferi la sofferenza che nel Mediterraneo queste persone devono subire ogni qualvolta affrontano questi viaggi del dolore. Quindi sostanzialmente i due lavori affrontano questa tematica dell'immigrazione e dell'immigrazione. Michele, una curiosità, facevi riferimento, sì, al materiale d'archivio, ecco, su quale materiale lavorate, dove andate a ricercare? Allora, noi usiamo due metodologie d'archivio, quello di dominio pubblico, che è l'Internet Archive e il Berliner Archive, e l'altro è un archivio personale che noi abbiamo e stiamo costituendo, e più che altro un archivio di materiale di scarto di nostri altri lavori. In un certo senso cerchiamo di fare un riciclaggio di quello che molti autori invece buttano perché non considerano il materiale buono, e quindi i nostri lavori sono composti per la maggior parte da archivio, archive footage e footage del nostro materiale, ecco. Ritratti è fatto in questo modo. Mediuses invece è fatto esclusivamente con materiale d'archivio trovato in rete di dominio pubblico. Senti, a questo punto ci lasci dei riferimenti internet, a parte quello di distribuzioni dal basso, dove si trova sia Ritratti che Mediuses, ma insomma più in generale per seguire la vostra attività credo che abbiate, oltre alla pagina Facebook, anche un sito internet. Sì, il sito è www.movimentomilch.com e poi i vari canali, sì, in questo caso Facebook o Vimeo per avvicinare dei lavori. vimeo.com/movimentomilch. Senti Michele, siete al lavoro su qualche progetto al momento? Attualmente sì, siamo in fase di ricerca per un lavoro che vorremmo fare sulla Calabria, un lavoro un po' più antropologico ed etnografico, ma ancora la fase di ricerca è lunga e quindi ci stiamo lavorando parecchio. Bene. Siamo concentrati per ora solo su quello. Bene, bene. Allora io ti ringrazio, magari ci sentiremo nel prossimo futuro per altre novità. Perfetto, grazie a voi. Un abbraccio Michele, ciao. Buona giornata, ciao. Michele del Movimento Milk, che è autore dei documentari, dei corti Ritratti e Mediuses, che sono usciti per distribuzioni dal basso. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15, anche se spesso e volentieri anche un po' in anticipo. In collegamento con Claudia Albanesi, curatrice dell'evento Videotelling Beyond Walls, che sarà in una giornata secca al Nuovo Cinema Palazzo il prossimo martedì 5 maggio. Esatto. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buonasera a tutti. Mi interessava molto questo progetto, parliamone. Allora, di cosa si tratta, Claudia? Sì, allora, in realtà il progetto è un po' più ampio, va, sì, un po' all'infuori della semplice produzione di video, realizzazione di video, e è in supporto agli attivisti per i diritti umani in Israele e in Palestina. All'interno poi del progetto abbiamo realizzato questi laboratori di videomaking con registi sia israeliani che palestinesi, o alle prime armi o registi un po' più esperti, comunque amatoriali, e sono venuti fuori in tutto una ventina di video sia in Israele, tra Israele e Palestina, che poi si sono rivelati di alto contenuto appunto politico, ma anche di grande valore artistico, tant'è che alcuni film prodotti in Israele sono stati presentati a festival internazionali e ne hanno anche vinti alcuni, come per esempio il Noida Film Festival in India o il Durham Film Festival in Gran Bretagna. Quindi insomma, doppia soddisfazione sia per il contenuto politico che per la qualità artistica. Sì. Senti, materialmente il lavoro come si svolge, soprattutto per quanto riguarda queste due anime sul versante israeliano e sul versante palestinese? Ma guarda, in realtà il lavoro in sé si è svolto inizialmente tramite un laboratorio sì. di videomaking pure semplice a livello di tecnica, quindi e di sviluppo del video in sé. Dopodiché i vari registi si sono riversati, alcuni anche per la prima volta in Palestina, in West Bank, dove hanno raccolto delle storie e dove hanno deciso appunto di svilupparle, storie che riguardano le sfere più ampie dell'occupazione, sia in Palestina che poi in Israele. Quindi hanno girato, hanno ripreso tutte le varie scene che gli sarebbero poi servite per costruire i film in Cisgiordania o in Israele, poi tramite l'aiuto e il supporto dei trainers israeliani sono riusciti a montare tutti i vari spezzoni facendo uscire questi film, tra l'altro visionabili sul sito del progetto al www.beyondwalls.net. E sono tutti caricati e quindi si possono visionare tranquillamente lì. Senti, il laboratorio, una curiosità, dove si è tenuto e poi quanti sono stati i videomaker coinvolti? Allora, il laboratorio in Israele si è tenuto a Tel Aviv. A Tel Aviv. Esatto, in un centro che in realtà non è legato al videomaking, ma è un centro, una scuola per rifugiati dove lavorano i nostri collaboratori israeliani e hanno usato quindi gli spazi del centro per portare avanti il laboratorio. In Palestina invece si è svolto nei vari villaggi dei partecipanti al laboratorio stesso, quindi niente di super tecnologico, diciamo. Sì, sì. E per quanto riguarda i partecipanti, in Israele sono stati circa una ventina, divisi tra il 2013 e il 2014, divisi in due workshop, mentre in Palestina sono stati più o meno una quindicina, sempre gli stessi in due laboratori diversi nel 2013 e 2014, quindi il percorso è stato più uniforme, diciamo, con i palestinesi. Quante opere presenterete in quella giornata qui a Roma al Cinema Palazzo? Allora, ne presenteremo 7 in totale, 5 realizzate in Israele e 2 realizzate invece in Palestina. E durante appunto la visione di questi 7 film riusciremo, grazie alla diversità di contenuti, ad attraversare il conflitto tra Israele e tra la Palestina, analizzando tutte le varie sfaccettature appunto di esso. Ecco, nel titolo c'è la parola muri, e quali sono i temi scelti dai vari registi di queste opere? Ma in realtà sono temi molto vari che comunque sono influenzati dall'occupazione, per cui si possono trovare temi legati all'arruolamento dei giovani israeliani durante il servizio militare, passando poi per la partecipazione degli attivisti israeliani alle varie manifestazioni, alla resistenza quindi non violenta in Palestina, fino ad arrivare al problema dei beduini residenti sia in Israele che in Palestina, che poi non sono riconosciuti né cittadini dell'uno né dell'altro stato, insomma molti temi tutti legati dallo stesso filo conduttore. Senti, come sarà strutturata la giornata qui a Roma? Allora, si inizia intorno alle 6:30 del pomeriggio con l'introduzione alla serata e la presentazione del nostro special guest, che è Ben Ronen, attivista degli anarchici israeliani, nonché coordinatore locale del nostro progetto e uno dei trainer del laboratorio videografico. Poi passeremo alla proiezione dei film, intramezzata con dibattiti, insomma, sui temi che mano a mano vengono presentati. Dopodiché ci sarà passeremo insomma alla parte un po' più leggera della serata con una pericena e dopodiché un concertino degli Etrusca Jazz, giusto per concludere in bellezza una giornata abbastanza impegnativa dal punto di vista contenutistico. Sì, sì, sì. Claudia, in chiusura ci dai anche le coordinate per saperne di più in rete su questo progetto e più in generale su questi lavori video? Certamente sì. Allora, come dicevo prima, il principale sito del progetto è www.beyondwalls.net, dove si possono trovare tutti gli output video e di altro genere realizzati all'interno del progetto. Poi sicuramente un sito di riferimento è quello dello Sci Italia, che è uno dei partner di questo progetto, che è www.sci-altoitalia.it, e si può visionare tranquillamente la nostra pagina Facebook, dove ci sono tutti i rimandi sia all'evento del 5 che al progetto stesso e ai tanti altri vari progetti che stiamo portando avanti. Claudia, io ti ringrazio, ci sentiamo per nuove iniziative. Grazie mille, buona giornata. A presto, ciao. Arrivederci, ciao. Claudia Albanesi, curatrice dell'evento Videotelling Beyond Walls al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma il prossimo martedì 5 maggio. Avremmo dovuto avere ospite questa puntata Susanna Nicchiarelli, regista del documentario Per tutta la vita. Ci siamo sentiti poco fa e dato che la data per la presentazione del suo documentario qui a Roma è slittata a giovedì 7 maggio, ne parleremo proprio il giovedì 7 stesso, per cui è rimandato questo appuntamento con Susanna Nicchiarelli. Torniamo a parlare di documentario, lo facciamo con Matteo Scarfò, che è regista di Bomb Burning Fantasy, che sarà presentato al Film Studio qui a Roma il prossimo lunedì 4 maggio. Matteo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Mi interessava molto perché si parla di poesia, ma di una poesia che ha avuto un'importanza storica molto, molto particolare. Di cosa si parla, Matteo? Sì, allora innanzitutto parliamo di uno dei più grandi poeti del Novecento. Sicuramente la Beat Generation è stato un movimento, un grandissimo movimento poetico del dopoguerra, che si è sviluppato in America ma ha avuto anche degli influssi sull'Europa. Diciamo che Gregory Corso è stato uno dei massimi esponenti di questo movimento e loro cantavano una specie di purezza che l'America secondo loro aveva perso dopo la seconda guerra mondiale. Quindi da lì poi nasce tutta una serie di contestazioni che hanno portato a un cambio molto radicale degli Stati Uniti. Sì, sì. Diciamo che c'è stata tutto un filone di letteratura in cui la poesia sicuramente ha avuto un grosso peso, ma più in generale anche c'è tutta una romanzistica legata alla Beat Generation. Matteo, da cosa sei partito? Qual è stato lo spunto? Come ci hai lavorato sopra? Guarda, io sono partito proprio dall'interesse verso la figura di Gregory Corso, che secondo me è stato il poeta più puro di questo movimento, perché come diceva Jack Kerouac, beat non significa battuto ma significa beato, beatificato, e Corso probabilmente ha vissuto questa beatificazione fino alla fine della sua vita. Tra l'altro è sepolto qui a Roma al cimitero degli inglesi, e mi interessava molto questa figura che ha sempre rinunciato a tutto, perché lui ha vissuto per moltissimo tempo come un clochard, come un barbone per strada, e non dava nessun peso, diciamo, al materialismo. Quindi lui rifiutava di avere un compenso per quello che faceva. Quindi mi interessava molto questa figura così forte, che ha fatto una scelta di vita sicuramente importante per lasciare un sentiero che magari poteva essere stabilito per seguirne uno che invece era destinato, cioè scelto dal suo destino. Pensa, stavi parlando di beato, del termine beato, stavo ricordando che nello spazio del radioteatro qui a Onda Rossa ho mandato in onda anche una registrazione di Howl, Urlo di Ginsberg, sì, in cui c'è la ripetizione santo, santo, santo, insomma mi ha fatto tornare in mente questo poeta. Matteo, come hai strutturato il lavoro? Il lavoro è molto particolare perché non segue la cronologia degli eventi della vita di Gregory Corso, ma ho cercato di seguire quel sentimento, quelle emozioni che la poesia può dare nella lettura, nella recezione. Quindi io non sono partito dalla nascita di Corso per arrivare poi alla sua morte, ma ho seguito proprio quest'onda di sentimenti della sua poesia. Siccome lui era molto ironico e anche però molto triste, ho alternato queste due fasi. C'è appunto un attore principale che si chiama Nick Mancuso, che interpreta Gregory Corso in varie fasi della sua vita, recitando delle poesie che noi vediamo diciamo rappresentate anche con uno sfondo a volte astratto, a volte surreale, a volte anche realistico. Però appunto non volevo che fosse la classica rappresentazione della vita di un personaggio storico, comunque famoso, fatto nella maniera classica. Volevo dare uno sguardo un po' sperimentale, ecco, diciamo, alla rappresentazione della sua poesia. Senti, per voglio sapere, insomma, oltre a questa presentazione qui a Roma, si tratta di una prima, e che circuitazione sta avendo questo documentario? Per il momento questa è una presentazione, purtroppo il film ancora non ha una distribuzione. Sì. Questo è un destino purtroppo comune a molte delle produzioni italiane, soprattutto quelle più sperimentali. Quindi io spero anche che questo lavoro possa circolare, possa suscitare interesse per poi trovare una distribuzione un po' più ampia. Comunque io invito chi vuole, insomma, chi sta ascoltando, a venirci a vedere poi lunedì 4 maggio al Film Studio a Trastevere alle 20:30. Almeno potrà avere un'idea di quello che è questo lavoro, credo che sia molto interessante. Sì. Anche perché Gregory Corso ha avuto un legame molto forte con Roma, lui è abitato qui, è stato sempre molto attratto dal fascino di questa città e dalle sue rovine, quindi anche dalla sua decadenza. Non è un caso che Gregory Corso si sia formato con i poeti romantici inglesi dell'inizio dell'Ottocento, Shelley, Byron, John Keats, che lui idolatrava, e infatti tra l'altro è sepolto al cimitero degli inglesi. Sì. Proprio accanto a Shelley. Sì. Le tombe sono vicine. Sì, sì. Ecco, proprio a proposito di questi suoi riferimenti culturali e intellettuali, quali sono i temi forti e portanti della sua poetica, Matteo? Beh, sicuramente parliamo di una vita in cui all'inizio gli è stato negato tutto, perché lui nasce in una famiglia italoamericana molto disagiata. Il padre tra l'altro se ne va quando lui è molto piccolo, lui viene anche arrestato per un furto a 17 anni, viene messo nello stesso carcere di Lucky Luciano, il famoso boss mafioso, e lì comincia ad appassionarsi della poesia, della letteratura. E quindi sicuramente le sue tematiche centrali sono sempre state questo sguardo ironico verso il destino della vita, però accogliendo anche la bellezza di quello che lui riceveva. Quindi non è stato mai uno sguardo di commiserazione o comunque di pentimento, o non ha mai detto se avessi potuto fare questo o quest'altro. Lui ha sempre accettato con molta gioia, diciamo, la sua vita. È una persona molto vitale, molto ironica. Però inevitabilmente nelle sue poesie viene cantata anche l'emarginazione e la tristezza degli ultimi, diciamo. Lui parla ovviamente degli Stati Uniti, e quindi si rivolge anche a chi in quell'epoca negli Stati Uniti non aveva nessuna voce, nessun diritto, e grazie anche ai beat si sono sviluppati appunto dei movimenti di protesta molto, molto forti. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti: che ne è dell'eredità del movimento beat, dell'opera del movimento beat oggi, e se c'è una fruizione soprattutto da parte poi dei più giovani? Allora, il movimento beat in realtà è finito poi con i suoi autori, ma non è solo questo, perché il movimento beat faceva riferimento a un preciso periodo culturale, parliamo appunto della seconda metà del Novecento, ma già come movimento negli anni Ottanta si poteva dire concluso. Sì. Quindi oggi sicuramente ha lasciato un'eredità molto forte, molto potente, che tanti hanno colto. Non ci sono degli autori sicuramente che possono definirsi beat, ci sono dei poeti ancora in vita, ma il movimento in sé non esiste più, probabilmente perché sono anche cambiati i tempi. Guarda, è un simbolo che Corso sia morto nel 2001, un anno che sicuramente ha cambiato la storia di tutti, di tutto il pianeta, e il Corso non si ritrovava più in quel mondo moderno che si stava affacciando verso questi nuovi anni. Quindi l'eredità c'è, è potente, tantissimi conoscono Jack Kerouac, tantissimi conoscono Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, però diciamo non c'è una vera ripresa di quelle tematiche, se non in scrittori che magari hanno letto quelle opere e se ne sono sentiti ispirati, però non c'è un diretto collegamento, ecco. Mm-hmm. Matteo, in chiusura ci lasci i riferimenti, chiaramente hai ricordato l'appuntamento di lunedì 4 maggio qui a Roma al Film Studio, sì. Ma più in generale su questo documentario e sul tuo lavoro? Sì, io il mio lavoro precedente è sempre un docufilm che si chiama Anna Teresa e le Resistenti, si trova anche un trailer insomma su YouTube se lo volete cercare, che parlava appunto della storia di Anna Magnani e di Teresa Gullace, tra l'altro ricordata appunto in questi giorni del 25 aprile, che parla diciamo di questa donna che è stata uccisa durante gli anni della guerra e da cui poi Anna Magnani si è ispirata per il famoso film Roma città aperta, e quindi ho voluto dare anche voce alle resistenti femminili partigiane che spesso sono state considerate diciamo delle combattenti di serie B. Quindi il mio lavoro finora si è sviluppato sempre in senso documentaristico, docufilmico, ho adesso sto lavorando a un nuovo film diciamo che è totalmente di finzione, quindi non un documentario, però sono molto interessato al linguaggio sperimentale, ecco, prendere le vite magari di altre persone e raccontarle attraverso un filtro, che è quello secondo me tutto l'arte dovrebbe fare questo. Mm-hmm. E altri riferimenti, posso dire che questo film dentro ha le grandissime interpretazioni di Nick Mancuso o di Elisabetta Pozzi, che è una grandissima attrice teatrale che appunto interpreta Shelley. Mi piaceva appunto dare a una donna il ruolo di un poeta romantico inglese. E poi insomma io vi invito semplicemente a venire a vederlo, anche perché il Film Studio è una sala, una cornice veramente importante, fondamentale per il cinema romano, una sala storica che ha fatto moltissimo per la cultura di questa città, quindi vi invito a venire lunedì 4 maggio. Matteo, t'abbraccio e a presto. Grazie, a presto. Ciao. Matteo Scarfò, regista del documentario Bomb, Burning Fantasy, al Film Studio lunedì 4 maggio. Con Giovanni Minerva, direttore della 30ª edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, cominciato ieri sera, prosegue fino al 4 maggio. Giovanni, ben ritrovato come ogni anno. Grazie, ben ritrovati anche voi ovviamente. Beh, 30 edizioni, che ne dici? Che dire, voi che sottolinei il fatto che sto diventando vecchio anch'io? Sono un po' di più i miei, non sono solo 30, sono, vabbè, comunque, che posso dire, ieri sera abbiamo incominciato alla grande, una bellissima serata, e posso dirlo perché il risultato si vede anche, chi è diretto interessato non dovrebbe dirlo, però posso dirlo perché abbiamo capito che il pubblico ha gradito, che il pubblico gradirà da oggi a lunedì i 5 giorni restanti, con un bel programma, che saranno tanti film, uno più bello dell'altro, e speriamo che sia così anche per il pubblico, ovviamente. Sì. Senti, tanti film, quanti presta poco? Quante sono le opere presentate? Ma fra lunghi, corti, 115 e 30 di questi, 30 lungometraggi faranno parte di un, diciamo, di un regalo che abbiamo deciso di fare al nostro pubblico, 30 film che voterà il pubblico. Di questi 30, 7 fanno parte della competizione ufficiale, 7, no, di questi 30, 9 fanno parte della competizione ufficiale, 7 del premio Queer, però il pubblico ha la possibilità di votare tra tutti e 30. Mm-hmm. E questo abbiamo avuto, appunto, anche per coinvolgere nella festa il nostro pubblico, dare l'opportunità di farci dare anche dei suggerimenti, quindi con il loro gradimento noi capiremo anche cosa è meglio fare l'anno prossimo, prendendo in considerazione loro. Ecco, proprio a proposito di anno in anno, la curiosità ogni volta è chiederti quali sono le tematiche più attenzionate in questi lavori e se ci sono delle direzioni che stai intraprendendo il movimento GLBT. Sì, sicuramente c'è un discorso più, come dire, diretto alle nuove generazioni, quindi le storie di giovani, e questo è anche importante. Ci sono anche film che raccontano altri temi, come quello degli anziani, delle persone mature in generale, ma soprattutto i nuovi autori, ovviamente giovani anche loro, cercano di raccontare un po' le loro vite, in questo senso, oppure le vite di persone che frequentano loro, che hanno la loro generazione. Quindi i giovani hanno, d'altra parte, le generazioni cambiano, in questi 20 anni sono cambiate, ovviamente, no? Mm-hmm. E i giovani in questi ultimi anni hanno più il senso dell'appartenenza in prima persona, quindi i giovani sono, come dire, la fanno da padroni. Mm-hmm. Senti, la questione dei diritti in Italia è sempre un punto interrogativo, che dire, siamo in attesa di capire cosa può succedere, visto che ormai stiamo entrando proprio all'ultimo gradino, all'ultimo finalino di coda su questi temi. Ci sono i giovani autori che raccontano anche queste cose, quindi il discorso sull'omofobia, il discorso sui diritti in generale. Gli autori italiani ce lo ricordano, oppure quantomeno a noi non devono ricordarselo, cercano di farlo ricordare a chi di dovere affrontare nuove leggi, che non ci sarebbe poi tanto da fare. Sì, ci sarebbe solo da rispettare un minimo quella che è la nostra carta costituzionale, dico sempre io. Basterebbe andare lì su l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 9, e da lì staremmo tutti meglio. Senti, gli ospiti per questa edizione? Gli ospiti per questa edizione, che come ben sapete siamo in all'ennesima edizione sul risparmio, visto la situazione generale, e non solo noi, tutti si va a risparmiare. Chi lavora nella cultura non ha altre possibilità se non cercare di mettere su un programma, un progetto nel miglior modo possibile, e dovendo risparmiare. Gli ospiti quest'anno abbiamo avuto come madrina eccezionale, che ci ha regalato una bella serata insieme ieri sera, Carolina Crescentini, sì. E l'ospite musicale Irene Grandi, per l'ultima sera, per la sera di chiusura, abbiamo il film musicale, abbiamo Zibba, molto amato anche dalla comunità, e gli ospiti poi sono i registi dei film, soprattutto, oltre a gli autori dei libri che presenteremo al Circolo dei Lettori in questi giorni, compresi gli autori che hanno regalato al festival un loro racconto, che il festival proprio stamattina ce l'hanno consegnato, questa raccolta di racconti, 16 autori, che si chiama Corti d'autore, Alessandro Colinelli, Cristiana Ricata, Ivan Cotroneo, Gianni Farinetti, Matteo Bibianchi, insomma, hanno fatto un bel regalo, questo bel volume di 16 racconti da oggi sarà in vendita al festival. Bene, bene. Giovanni, i riferimenti internet per la programmazione? I riferimenti internet è tglff.it e lì c'è di tutto, di più. Bene. Twitter piuttosto che Facebook, eccetera. Senti, com'è strutturata è tendenzialmente una giornata del festival? Quali sono gli orari? Ma gli orari oggi, come diciamo primo giorno, cominciamo dalle 16 in avanti e da domani dalle 14 in avanti ognuno può fare la sua abbuffata di immagini. Bene, bene. Io, Giovanni, ti come sappiamo, tre sale al Cinema Massimo da oggi fino a lunedì. Fino a lunedì. Io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Lunga vita ai lupi, dico io. Esatto. Ciao Giovanni. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Ciao, ciao. Giovanni Minerba, direttore della 30ª edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, da ieri 29 aprile fino al lunedì 4 maggio. C'è con noi Paolo Luciani, curatore della rassegna Too Much Ciro, che comincia il 3 maggio prossimo, andrà avanti fino all'8. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti voi. Allora, mi avevano segnalato questa rassegna, tra l'altro ho dedicato ad un fotogramma in bianco e nero, proprio tirato fuori da questa rassegna, la copertina della trasmissione di questa settimana. Paolo, raccontaci un po', cos'è Too Much Ciro? Ma Too Much Ciro, partiamo proprio dal titolo, che riassume in sé due diciamo suggestioni su cui si muove la manifestazione. Thomas Johnson è il titolo di un film muto di Orson Welles, un film del 1938 che alcuni anni fa è stato ritrovato, restaurato e presentato in una manifestazione che si chiama Le giornate del cinema muto di Pordenone, che ospitiamo ogni anno, tra l'altro. Esatto. Al Too Much abbiamo aggiunto il nome Ciro, perché Ciro Giorgini, che è una delle persone che ha partecipato al ritrovamento e alla salvaguardia di questo film, è un nostro carissimo amico, scomparso circa un mese fa, è stato un protagonista, diciamo, della ricerca cinematografica italiana, della ricerca televisiva, è un fondatore di un cineclub storico e poi autore televisivo di tante trasmissioni, da Blob a Schegge, ma soprattutto da 25 anni a questa parte di Fuori Orario, che è stata, insomma, la vetrina del cinema più invisibile che si sia potuto vedere in Rai. Quindi a un mese dalla sua scomparsa gli amici gli hanno dedicato questa manifestazione, richiamandosi a Wells, di cui proprio in questi giorni ricorre il centenario della nascita, e anche perché Wells era la sua non solo passione di cinefilo, ma vera e propria ossessione. A Wells ha dedicato tante trasmissioni, ma soprattutto tante ricerche e tanti lavori che sono poi finiti a far parte come dire, dell'universo degli studi wellsiani che tentano di dare una forma al cinema di Wells, che è fatto di tagli, di scarti, di film girati e rigirati, non finiti, frattaglie, cose di questo tipo. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma quella di Wells è stato anche un lungo rapporto molto significativo con la radio, con lo strumento radio. Sì, certo, la famosa trasmissione sì. dell'arrivo della guerra dei mondi, sostanzialmente, sì, l'arrivo dei marziani, sì, esatto. Degli abitanti di Marte, l'invasione della Terra, alle porte di New York, gettò nel panico all'epoca gli ascoltatori, nonostante tutti gli avvisi che gli autori, i curatori avessero posto in testa alla messa in onda, che si trattava appunto di una trasposizione radiofonica di un romanzo, insomma di un romanzo di fantascienza, e quello fu, diciamo, il botto mediatico che impose Wells, peraltro già all'epoca abbastanza famoso per il lavoro teatrale che svolgeva, all'attenzione del mondo, di Hollywood in particolare, che sull'onda di quello gli dà carta bianca per girare una serie di film cui, diciamo, primo titolo è Citizen Kane, cioè Quarto Potere, che viene considerato ancora una pietra miliare della storia del cinema. Sì. Senti, una rassegna che ha tanti luoghi. Sì, tanti luoghi, perché, come dire, su la suggestione di fare di organizzare un ricordo e un omaggio a Ciro Giorgini si sono agganciati alcuni spazi romani che hanno avuto a che fare con lui nel corso degli anni, e sono dal 5 maggio in poi il Cinema dei Piccoli, il Palazzo delle Esposizioni, il Film Studio e la Sala Trevi. Il clou sarà il 4 maggio alla Casa del Cinema, che ci ha ospitato con uno spirito di grande collaborazione, offrendoci la possibilità di utilizzare tutte e tre le sale della struttura, quindi dalle 16 in poi nella sala Deluxe, nella sala Kodak e nella sala Volonté si alterneranno materiali di e con Orson Welles o su Welles, insieme proprio a materiali originali prodotti negli anni da Ciro Giorgini, sia su Welles che su altre sue due, un'altra sua grande passione, che era John Ford, di cui presentiamo un suo documentario dedicato alle radici irlandesi del regista, e altre piccole sorprese che sono sparse, diciamo, nella programmazione. Il clou sarà alle 20:30 con la proiezione appunto di questo film muto, Too Much Johnson, che per l'occasione è fornito proprio da Cinema Zero, dalla Cineteca del Friuli e dalle Giornate del Cinema di Pordenone. È una assoluta anteprima per la città di Roma e viene accompagnato al piano dal maestro Antonio Coppola. Senti, in questa sei giorni quante sono i lavori, le opere che presenterete? Il conto preciso non l'ho fatto, però diciamo saranno, considerando, non so, saranno una ventina. Titoli. Mm-hmm. Sì, una ventina, anche qualcosa di più, considerando che, non so, nella sala Volonté, alla Casa del Cinema, il 4 maggio dalle ore 16:30 viene riproposta una delle notti che Ciro Giorgini ha dedicato al film Mr. Arkadin, Rapporto confidenziale di Orson Welles. La durata di questa notte di fuori orario è di circa 4 ore, quindi diciamo comunque sia una maratona. È una maratona già di suo. Sì, poi sì. Le altri due spazi fanno ognuno 4-5 titoli. Sì, direi che alla fine saranno, considerando gli altri spazi, un 20 titoli. Senti, anche momenti di approfondimento oltre a quello delle proiezioni? Sì, il giorno 4 alla Casa del Cinema alle 20:30 così abbiamo dedicato uno spazio a saluti, ricordi e testimonianze sul suo lavoro, proprio sul lavoro di Ciro Giorgini, e quindi si alterneranno alcuni nostri amici, appunto responsabili della Cineteca del Friuli, di Cinema Zero, i suoi amici con cui ha lavorato tanto qui in Rai di Fuori Orario, e quanti altri vorranno, perché poi quello che è emerso in queste settimane di lavoro è stata la grandissima partecipazione, il grandissimo lavoro che Ciro ha avuto in questi anni con decine e decine di situazioni, che siano circoli culturali, associazioni, piccoli festival indipendenti sparsi in Italia e all'estero. Quindi ci aspettiamo, come dire, una partecipazione dal vivo anche di molte persone che hanno avuto a che fare con lui in questi anni. Senti, in chiusura i riferimenti, cioè, avete proprio un sito di riferimento o una pagina social? Il sito di riferimento è quello della Casa del Cinema di Roma. Okay. La Casa del Cinema di Roma, che contiene, diciamo, l'integrità del programma, e naturalmente quelli anche delle altre strutture. Quindi sono il Cineclub de Tour di Roma, che ha già postato sul suo sito l'intero programma, e il Film Studio, che è l'altro spazio che partecipa all'iniziativa, e credo anche il sito della Cineteca Nazionale di Roma e della Sala Trevi. Cioè ognuno, come dire, oltre alla propria giornata rimanda l'intero programma della manifestazione, però il sito di partenza su cui il programma è completo è quello della Casa del Cinema di Roma. Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio, grazie, e alla prossima. Grazie a voi. Ciao ciao. Paolo Luciani, curatore della rassegna Too Much Ciro, a Roma in diversi luoghi dal 3 all'8 maggio prossimi. Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Child 44 in uscita in sala oggi giovedì 30 aprile. Mattia, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Un po' sulla fiducia, come ti dicevo, perché non sono riuscito a vedere il film nell'anteprima stampa, però insomma mi incuriosiva parecchio. Allora, però ti abbiamo invitato, dai. Non mi è arrivato, diciamo, mettiamola così. Vabbè. Dimmi tutto. Allora, di cosa, raccontaci un po' di questa storia. Allora, il film racconta la storia, innanzitutto è ambientato nella Russia sovietica del 1953. Sì. E è una trasposizione ispirata ai fatti realmente accaduti del mostro di Rostov, che in realtà cronologicamente è più avanti, però sì, noi per trasposizione cinematografica abbiamo utilizzato il romanzo di Tom Robb Smith, che appunto trasporta questa vicenda indietro nel tempo, ed è ambientato nella Russia stalinista, e il protagonista, che è Tom Hardy, è Leo Demidov, che è un agente dei servizi segreti e che comincia a pensare al fatto che una serie di omicidi che riguardano principalmente dei bambini possono essere legati da un filo comune, e possono soprattutto essere omicidi, cosa che nel regime stalinista non veniva concepita, perché il film, almeno era finzione, parla del fatto che non esistono crimini in paradiso. Questa era la tagline che apre il film. Quindi in questo tipo di contesto Tom Hardy si trova a cercare di investigare per capire se esiste un filo rouge che collega in qualche modo tutti questi omicidi di bambini. Ovviamente il regime cerca di ostacolare la sua ricerca in qualche modo, e lui, per proteggere la moglie, viene degradato ed esiliato, ma la sua ricerca continua fino a scoprire che un serial killer esiste. E poi da lì non vi dico più niente, perché sennò vi svelo la fine del film. Sì, senti, no, infatti la cosa che mi incuriosiva era questo abbinamento tra il socialismo reale e la negazione della psicopatologia, perché qui stiamo parlando di un serial killer. Ecco, come è resa cinematograficamente questa negazione? Guarda, è resa nella misura in cui il regime si oppone in tutti i modi possibili, arrivando appunto, come ti dicevo, a degradare il protagonista e a spedirlo lontano da Mosca, dove lui sta abitualmente, diciamo, essendo un uomo di regime, una persona alta all'interno della scala gerarchica, e quindi viene spedito lontano, lontano, lontano, fino e degradato, come ti ho detto. Quindi il clima oppressivo comunque è assolutamente presente all'interno della narrazione, e diciamo che da questo punto di vista diventa quasi un ulteriore protagonista della narrazione. Questa storia probabilmente non sarebbe stata possibile se non fosse stata ambientata in quel particolare periodo storico, in termini visivi quantomeno. Sì, okay? Sì, sì. Senti, la derivazione letteraria, ecco, volevo chiederti, sì, rispetto alla trasposizione, quali sono i grossi cambiamenti e su cosa ha puntato il film rispetto alla pagina scritta? Guarda, innanzitutto hai fatto bene a dirlo, perché questo film, è la trasposizione di un libro di Tom Robesmith. In realtà è l'inizio, è il primo libro di tre che hanno come protagonista Leo Damidoff. E diciamo che ricorda un po' quelle atmosfere che ricordano un po' i libri di Harris, un po' Fatherland, no? Ambientati in quel tipo di... mi viene quasi a definirlo una distopia, nel senso che appunto si rimmagina la storia come in realtà se le cose fossero andate leggermente diversamente. E le differenze che ci sono principalmente sul libro sono soprattutto nella seconda parte del film, quindi se non ti spiace preferirei non dirtele, perché sennò rischi di dare un po' troppo della trama. Sì. Ok. Rispetto alla distribuzione, ecco, come siete arrivati a questo film e come avete poi deciso per portarlo in Italia? Noi abbiamo preso, questa è una nota tecnica, abbiamo preso il film sulla sceneggiatura, l'abbiamo preso quasi 2 anni fa. Okay. Perché eravamo molto molto molto molto molto, non siamo ancora convinti del progetto. Il libro è stato un enorme successo, è stato un buon successo anche in Italia, un enorme successo a livello mondiale. E la sceneggiatura ci era piaciuta fin da subito, e quindi abbiamo deciso di prenderlo, appunto, ormai si guarda, cambi 2 anni fa, quindi sostanzialmente è da molto che seguiamo il progetto. L'abbiamo seguito poi, ovviamente, avendolo preso così, con così largo anticipo, l'abbiamo seguito in tutte le fasi di sviluppo, quindi abbiamo cominciato a vedere qualcosa man mano che arrivava, le prime foto, e ci siamo innamorati piano piano, perché poi veramente la ricostruzione storica è di una fedeltà bellissima visivamente, e quindi ve la consiglio, se non altro per la fedeltà della ricostruzione. Ecco, per la struttura narrativa, questo ti... Lei è la domanda di uno spettatore che ancora purtroppo non l'ha visto, però volevo chiederti, c'è un pari peso rispetto a, per esempio, alla psicologia dei protagonisti o alle vicende investigative? È un piatto che è equiparato su tutti e 2 i livelli? Ma guarda, in linea di massima sì. In linea di massima sì, all'interno del, come peso narrativo, una parte che noi non ho approfondito, diciamo, quando ti ho raccontato la trama, è, oltre a questo, è anche la storia d'amore che è presente nel film. Okay. Cioè, che te l'ho accennata molto brevemente, dicendo che appunto lui, per proteggere la moglie che non era pass, arriva a mentire, e quindi per questo viene poi spedito ai confini. Quindi questa parte è una parte che anche questa è molto importante. Diciamo che il film è tripartito da questo punto di vista, nonostante mantenga poi comunque una struttura da thriller abbastanza classico, però c'è anche questo elemento che ha un peso ulteriore rispetto a quello che mi dicevi tu. Mm-hmm. Da questo punto di vista. Ok. Senti, da oggi nelle sale in quante copie esce? In 240 da noi, invece in Russia non esce. Non so se hai letto la notizia. Questa mia è nuova. In Russia non è stato distribuito, nonostante appunto anche loro avessero acquistato il film più o meno insieme a noi, però diciamo che Putin non ha apprezzato particolarmente il racconto che veniva fatto, proprio per quel discorso che ti facevo prima di oppressione, di tutto quanto, nonostante fosse una retrodata, però hanno bloccato la distribuzione. La sua storia è quella, lui è... Noi lo possiamo vedere almeno. Sì, sì. No, dicevo, rispetto a Putin, la sua storia è quella, lui viene proprio dai servizi segreti, per cui esattamente sì, immagino. O magari lui può non averla trovata particolarmente fedele, però lui probabilmente sa anche delle cose che noi non sappiamo. Mattia, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Anche a te un ciao. Abbraccio a tutti, ciao, buona ciao. Giornata. Mattia Della Puppa di Adler Entertainment sulla distribuzione del film Child 44 in uscita in sala oggi giovedì 30 aprile. Dovremmo avere un ultimo collegamento per un signor festival. Oh, dicevo un signor festival perché stiamo per parlare intanto di una 25esima edizione e poi il festival è quello del cinema africano d'Asia e America Latina in quel di Milano dal 4 al 10 maggio e ne parliamo con quella che è la co-direttrice, ossia Anna Maria Gallone. Anna Maria, ben ritrovata. Buongiorno. Allora, 25 edizioni comincia a essere un numero che suona. Sì, siamo adulti, devo dire, no, è un bel anniversario e devo dire che ci eravamo preparati a festeggiarlo in gran pompa e lo festeggeremo, ma insomma abbiamo avuto molte difficoltà a farla questa edizione perché purtroppo molti sponsor si sono dileguati, molte attenzioni sono rivolte all'Expo, però ci siamo riusciti e sarà una bellissima edizione che conclude, non conclude, ma insomma festeggia e puntualizza una storia di tanti film, di tanti incontri, di tante culture. Siamo molto felici. Oh, tre continenti, tre grossi continenti, quindi di materiale ce n'è in abbondanza. E come ha funzionato, ecco, per esempio la selezione dei titoli? Ecco, ti dirò che abbiamo visionato oltre 800 film. Immaginavo. 800 lungometraggi, perché quando eravamo solo Africa era un numero più limitato, adesso tre continenti sono veramente un numero notevole e noi cerchiamo sempre di scegliere delle prime, innanzitutto prime che provengono da festival dove sono state pure premiate, infatti quasi il 100% dei nostri film sono prime nazionali e abbiamo anche una prima mondiale. E la cosa che ci interessa è appunto il messaggio che viene da queste culture, storie, la creatività, storie nuove, storie che ci fanno sentire più vicine a queste comunità che vivono accanto a noi. Però teniamo molto anche a livello alto artistico di questi film, che devono avere un valore assolutamente universale. Quali sono i paesi in questi tre continenti più vivaci in questo periodo? Guarda, sicuramente l'Oriente ha delle cose meravigliose, devo dire che film della Corea, della Cina, film non ufficiali, diciamo, un po' underground, riceviamo cose bellissime. C'è una rinascita molto interessante anche del cinema dell'America Latina, quest'anno devo dire ho visto cose bellissime, e invece il cinema africano vive un momento non facile. Mm-hmm. Anche al recente festival di Ouagadougou, il festival dove sono andata appunto per vedere gli ultimi film, purtroppo non c'era una grande produzione. Noi avremo nella sezione flash il film Burkinabè, che ha vinto l'Etalon Bronze, il secondo premio, che è un film interessantissimo, che segnalo l'œil du cyclone, sulla storia di bambini soldati, ma non da piccoli. Qual è la vita dei bambini soldati una volta che sono cresciuti, diventati adulti, qual è la loro vita, l'œil du cyclone. E però appunto ti dicevo, il cinema africano vive un momento di impasse. È difficile scegliere film di alto livello, se ne producono in Marocco per esempio, se ne producono tantissimi. Mm-hmm. Però molti sono più film televisivi come taglio. Cinema in questo momento non è facile da trovare in Africa, anche se abbiamo, e questa è una delle cose molto belle di questo festival, come presidente di giuria Abderrahman Sissako, da tutti conosciuto, candidato all'Oscar, 7 César in Francia, cosa mai avvenuta per un regista africano. Mm-hmm. E poi la cosa bella è che i registi noi li seguiamo fin da piccoli. Sissako è venuto da noi tanti anni fa, era un ragazzino col suo primo corto di laurea e l'abbiamo un po' scoperto, accompagnato in tutti questi anni, e quindi è una grande soddisfazione vederlo adesso conosciuto in tutto il mondo. Anna Maria, rispetto alla vostra selezione, quali sono gli argomenti più battuti? Dunque direi c'è molto cinema urbano. Mm-hmm. A differenza di un po' d'anni fa, quando era più la campagna che viveva. No, tra l'altro, scusa, l'argomento clou di questo festival è la sezione dedicata all'Expo, perché da 3 anni abbiamo una sezione Films That Feed, il cinema che nutre, in cui selezioniamo film che vengono dai tre continenti e che trattano non solo l'alimentazione, ma quelli che sono un po' tutte proprio le tematiche dell'estro, no? Il futuro del pianeta, la biodiversità, land grabbing, eccetera. E abbiamo una serie di film estremamente interessanti in questo senso, quindi una sezione molto ricca. Sì. E poi invece nella sezione, argomento ahimè molto presente, nella sezione extra, che è quella degli occidentali che raccontano storie dei tre paesi o di immigrati della seconda, terza generazione, è molto trattato il tema del razzismo e non si può non parlare di quello che è l'olocausto oggi del Mediterraneo, per cui diversi film trattano questa tematica. Sì. Ci saranno anche alcuni degli autori presenti? Sì, parecchi. Penso che abbiamo, anche qui abbiamo dovuto un po' tagliare perché ahimè i tagli ci sono stati proprio per un budget che è ridotto, però abbiamo almeno una trentina di autori presenti. Senti, le diverse sezioni del festival? Sì, allora abbiamo la sezione ufficiale che è quella dei lungometraggi in concorso Finestre sul Mondo, poi abbiamo una sezione dedicata al concorso cortometraggi africani perché il nostro focus rimane sempre sull'Africa, poi abbiamo questo concorso extra di cui ti parlavo, di coloro che non sono dei tre continenti ma ne parlano, abbiamo la sezione tematica Films that Feed, abbiamo la sezione speciale, ah questa è un'altra grande novità, abbiamo la sezione speciale Africa Classics. Sì. Che presentiamo nel neonato Museo delle Culture, il MUDEC di Milano, e quindi abbiamo capolavori assoluti della storia del cinema, dal primo film di Sam Ben Usman del 63 a Tuki Buki, alla Mummia, a Come Back Africa, Trans, cioè film proprio cult che sono stati restaurati grazie alla fondazione di Martin Scorsese. Poi abbiamo ancora la sezione Razzismo Brutta Storia, che tratta appunto il tema del razzismo e dell'immigrazione, e infine una sezione tematica che da 3 anni curiamo, molto divertente, infatti si chiama E tutti ridono, perché racconta come ridono i tre continenti, quindi una serie di commedie proprio per capire qual è l'humor, quali sono le cose che fanno ridere altrove. E quest'anno abbiamo un solo film, però pare irresistibile perché ha conquistato non solo la Francia ma anche l'Africa, si chiama Le Crocodile di Botswana di Fabrice Ewé e di Lionel Stechetti, ed è tratta il tema del calcio, un tema sempre che ha un grande riscontro di pubblico. Senti, dicevi 800, più di 800 selezionati, cioè quelli arrivati, e arrivati, quali sì. Invece, quante sono invece le opere presentate? Sono oltre 60, 70 circa. 70 circa, bene. Sì. A questo punto ci dai tutti i riferimenti per la programmazione? Certo, allora abbiamo diversi cinema come sempre dove si svolge il festival, abbiamo quello storico, l'Auditorium San Fedele in via Eupli, abbiamo il cinema Oberdan che è quello di Porta Venezia, abbiamo il Centre Culturel Français e il cinema Beltrade, e poi abbiamo una cosa, un luogo importantissimo che è il Festival Center al Casello Ovest di Porta Venezia, che ospita, è un po' il foyer del festival, e lì abbiamo il tè con i registi che incontrano il pubblico, abbiamo happy hours, abbiamo workshop, tutto, diciamo tutto quello che è ludico, workshop per bambini eccetera, ed è, devo dire, frequentatissimo. E qui abbiamo due mostre splendide quest'anno, due mostre eccezionali, una di Joan Bardeletti che è un grande fotografo che ci racconta la classe moyenne africana, quella classe che sta crescendo e che entro pochi anni è prevista cambiare completamente lo scenario dell'Africa, e l'altra una mostra stupenda di Timothy Emanuele Costa che si chiama Thousand People, ed è un fotografo che prima nei vicoli di Genova e adesso a Milano ha portato i volti multiculturali, tutte le etnie fermate da una camera di sua invenzione che coglie tutta la bellezza dei volti, di ogni ruga, di ogni espressione, e ne fa un puzzle fantastico, sarà esposta tutta intorno e dentro alla Casa del Pane. Bene, Anna Maria, io ti ringrazio, ti abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, vi aspetto tutti coloro che possono venire, seguiteci anche su Facebook, Twitter, eccetera. Ciao, a grazie. Presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E questa era Anna Maria Gallone, codirettrice della 25esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 4 al 10 maggio. Con lei concludiamo la puntata di questa settimana di Visionari. Per seguirci potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è l'opzione Ascolta la diretta. Per quanto riguarda la scaletta e tutte le informazioni, potete trovarle sia sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. È tutto, ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre il giovedì dalle 14 alle 15.